Radio Tube, l'intervista di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola, un altro appuntamento speciale con le interviste di Radio Tube. Oggi con noi l'ultima rivelazione dell'indie italiano. Studi di Radio 24, Milano. È al primo disco, ma il passaparola ha già riempito i suoi concerti. Dalla Maciste Dischi, l'etichetta degli ultimi fenomeni, con Figurati l'amore, arriva Mox. Arriva da, fortunatamente, una produzione molto ragionata e bellissima e sensata, che è appunto quella di Maciste Dischi, che si è fatta sentire negli ultimi anni. Sono una delle nuove realtà che, quando fanno uscire qualcosa, è già una sorta di garanzia, perché quando uno viene da lì si sa che, insomma, viene da un certo tipo di milieu, fa un certo tipo di musica. Allora, il disco è, glielo stavo dicendo prima, molto, molto carino, un po' vintage, un po' così, con delle foto che potrebbero arrivare dai primi anni, fine anni 70, primi anni 80, quei colorini lì, quell'aria un po' evanescente. Il così? Mondo è quello, il mondo che ci piace è quello, sì. Ma ci piace solo visivamente o ci piace un po' anche perché tu sei più giovane di quella generazione lì, non li hai neanche visti tu. Come mai questa ispirazione? Sì, li ho vissuti per eredità, diciamo. È comunque sì il mondo che più mi attrae della musica, perlomeno del panorama italiano. Ascolto tanto anni 60, anni 70. Penso che si possa anche comunque intuire dalle canzoni di quest'album. Assolutamente. Cantautorato romano in questo periodo. Ragazzi, cosa avete bevuto nell'acqua di Roma in questi anni? Perché stanno uscendo un sacco di cose veramente estremamente interessanti. Probabilmente il disagio che sta passando la città di Roma. Dici che per reagire a una situazione non... I romani sono un po' delusi. Io sì. Ogni volta che arrivo a Roma, e lo faccio molto spesso, trovo dei romani molto delusi. È una reazione? È una realtà, purtroppo. Sì, è tutto vero. Soprattutto a livello artistico ci si rimbocca le maniche quando qualcosa va male. L'ispirazione... Il malumore, il disagio è sempre stata un'ottima ispirazione per l'artista. Allora, tu però sei siciliano? Sì, un po' si sente, dai. Un filino si sente, sì. Allora, Figurati l'amore, da dove viene questo titolo? Non è il titolo di una delle tracce? Fa parte di un ritornello di una delle tracce, che è Mara, che forse è la canzone più riuscita dell'album, o comunque una delle mie canzoni preferite, insomma. Sì, è una parte del ritornello di Mara. Secondo me raccontava molto bene il mood dell'intero album, che sono comunque 9 tracce, tutte quante legate appunto dall'amore, ma da questa visione catastrofica, tragicomica. Eh sì, perché Figurati l'amore, finisce il mare, figurati l'amore. Esattamente. Se vuoi possiamo ballare vicini come una cosa sola. Non dire una parola, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. Se poi possiamo andare in India, o anche a Tunisi, o anche a Brindisi, se poi possiamo fare finta. Quindi è un amore anche questo, con delle tinte pastello un po' nostalgiche, che racconti? Inevitabilmente sì, è un po' l'amore che ho vissuto in base a recentissime esperienze, anche quello che ho sempre ascoltato nella musica. Quindi... Vabbè, gli amori troppo felici non fanno nascere le canzoni, diciamocelo. Diciamolo pure. È così, cioè quando uno è così felice perlomeno non nascono, cioè sì, nascono le canzoni d'amore, ma le canzoni d'amore belle nascono quando... È che se uno è felice va a divertirsi, mica si mette a scrivere una canzone. Verissimo. Verissimo. C'è anche una canzone con una parolaccia nel titolo? C'è. L'hai fatto perché così poi sarà un singolo da mandare in radio e bisognerà annunciarlo? In realtà... Comincia con la P, finisce con l'A, non me lo dico. Finisce con Uttana. Comincia con la P, ok. In realtà chiedo anche scusa, insomma, se può offendere qualcuno questo titolo o comunque questa parola usata in un contesto del genere, ma... non, se una insomma non gli posso dire cretina, una che... Beh, com'è che diciamo... era, se uno stronzo non gli posso dire stupidino, com'era, certo, certo. Diciamo le parole giuste. E soprattutto diciamo che l'intero album è un po' un qualche sassolino che mi sono voluto levare dalla scarpa, è un esorcizzare un periodo, quindi... mi auguro pure che insomma nel futuro cambierò argomento. Ah beh, certo, il prossimo disco parla di tutt'altro. Ha iniziato con questo San Lorenzo, però appunto San Lorenzo ci riporta a un quartiere molto, molto particolare di Roma, nel bene e nel male, un quartiere estremamente artistico, ma ultimamente un quartiere piuttosto sfortunato. Però tu non abiti lì. Ci ho abitato per un paio d'anni, sì. Che è proprio il periodo in cui ho scritto in realtà quest'album. Quindi un quartiere estremamente artistico, allora per quello è nato questo San Lorenzo. Secondo me è estremamente romantico, adesso chiaramente è il periodo in cui è chiacchierato malamente, ma di base secondo me è uno dei quartieri più belli di Roma, nel senso è davvero, si può respirare ancora la borgata, la Roma antica. La romantica, bellissimo, perfetto, è così. Dopo un lungo viaggio non ci raccapezziamo più, dopo tutto è questo che cercavi di spiegarmi tu, e da San Lorenzo che ti ho perso, lontani, siamo lontani, e poi ci troveremo domani a ripensare magari dopo tutto, chissà, forse avremo che nessuno come chi viene da fuori possa capire la bellezza di una città, perché se ci sei nato forse la vivi meno, invece se l'hai vista arrivando c'è una cosa molto più ricca. Probabilmente sì, e poi in realtà io non abito proprio al centro di Roma, quindi comunque ho ritrovato anche la periferia in quel quartiere, è un discorso proprio di persone, di vivere il quartiere in un certo modo. Di giorno c'è il mercato, ci stanno i vecchi con le sedie sedute sotto casa. Certo, certo. Tu vivi alla Storta, che è un quartiere che chi conosce Roma Nord sa dove sta là sopra, insomma. Ho letto un sacco di cose di te, e ho letto anche quella domanda che si fa sempre sui gusti musicali, sui dischi che ti hanno ispirato. E non sei la prima persona che cita Enzo Carella. Mamma mia, più grande ingiustizia della musica italiana. Sai che non è la prima volta che ne parlo a Radio 24, è una cosa veramente clamorosa il fatto che ci sia questo recupero di Enzo Carella. Meno male, direi. Io l'ho scoperto purtroppo dal telegiornale che annunciava la sua morte. Mi sono andato a informare perché comunque mi piace informarmi a livello musicale. Ascolto un sacco di musica che non conosco. Cerco di essere aggiornato e di recuperare, di colmare i vuoti. Enzo Carella è stato forse tra gli italiani l'ultimo che mi ha davvero spiazzato, che mi ha sorpreso positivamente, che mi ha conquistato. Quanto c'è della tua generazione nei tuoi brani? Ad esempio mi viene in mente, insomma, quello che racconti, quello che chiedi a questa brava, in senso un po' ironico, brava che ti sei laureata, brava che hai fatto questo, è brava. Quanto c'è della tua generazione? Nella mia generazione penso abbastanza, nel senso che la mia generazione è molto confusa e non sa bene dove collocarsi, quindi... Anche questo guardare un po' indietro è curioso ma sintomatico? Beh, un po' cercare il proprio posto nel mondo. Personalmente poi io sono un romantico nostalgico e guardo spesso indietro e capisco le cose un po' dopo, in un certo senso, rielaborandole quando sono costretto a farci i conti. Brava nello specifico poi è una canzone che è nata davvero in 5 minuti, mi sono limitato a descrivere quello che è stato un incontro davvero con una ragazza, una mia ex, è tutto vero, tutto l'album è verissimo. Ma non è una ex sola o sono tante? Sono più d'una, tante forse? Sono più d'una, una in particolare, ma sono più d'una. Bene, ringraziamola per questo album. Proclami di non aver mai tradito. È verissimo. Beh, non ma saprei... è impopolare questa posizione, cioè è assolutamente impopolare. Mi imbarazzerebbe tantissimo, non saprei davvero come gestire una situazione del Vabbè, genere. La ragione per cui non dico bugie, perché poi tanto non me le ricorderei, sarebbe un casino poi gestirle, meglio evitare. Anch'io non mento mai. Ti sei svegliata tutta colorata, ma il pomeriggio è diventato grigio. Allora, io non posso non chiedertelo, perché comunque ti butti in un mare affollato ultimamente. Che sensazione ti dà? Perché comunque è un momento in cui l'indie non è più indie, il pop non è più pop, non ci sono più confini tra l'uno e l'altro, il cantautorato ha inglobato entrambi, oppure entrambi hanno inglobato il cantautorato, ci sono un sacco di autori interessanti. Com'è buttarsi adesso con questo disco Rosa Caramella sul mercato? Con questo tema poi mai trattato nella musica. Ma sai, allora, io penso che comunque di spazio per le canzoni d'amore ce ne sia sempre, anche perché di spazio per le stronze, quello è infinito. Quindi com'è buttarsi in questo mare? È bello, secondo me è un bellissimo momento per la musica, soprattutto appunto in Italia. Cioè, non so se è una sorta di ricambio generazionale o semplicemente se le persone, il pubblico, si è proprio in un certo senso risvegliato, ma esiste un pubblico che sostiene questa scena nuova, questi nuovi cantautori, questa musica che appunto fino a pochissimi anni fa era impensabile sentire per la radio, comunque era irraggiungibile se non appunto con il passaparola, quello vero e proprio. Ben venga tutto questo, insomma, non... Qualunque genere musicale è ben accetto se è sostenuto in questa maniera dal pubblico. Ed è tutto per questa puntata di RadioTube, l'intervista con Mox. Ancora un saluto da Marta Cagnola.